Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Aprì la finestra ed allora con gran strepito d'ali entrò nella stanza un maestoso corvo dei sacrali giorni d'un tempo. Non fece alcun cenno d'ossequio, non un attimo s'arrestò e indugiò, ma comportamento d'un gran signore o di dama si posò sulla mia porta. Dalle nubi egli sfida la tempesta e l'arciere nella sua corsa franca. Esule sulla terra, fra gli schermi e le strida, l'impacciano le grandi ali e maldestro arranca. Sì, oggi facciamo una trasmissione culturale. Vi ho fatto ascoltare degli stralci del Corvo di Edgar Allan Poe e dell'Albatro, il Gabbiano di Baudelaire, due uccelli simbolici portati nella poesia da due punti di vista totalmente differenti. Il Corvo, che è un piccolo poemetto di Poe del 1845, bussa alla finestra del poeta, maestoso, inquietante, con le sue ali nere, e il poeta lo tratta come una sorta di spirito che viene in un'altra dimensione, gli fa alcune domande, risponde sempre nevermore, mai più, mai più, mai più, mai più. Questo è il Corvo. L'Albatro, beh, una poesia che è anche una bella poesia, sta nei fiori del male, ha un suo senso, ma è logorata dal fatto che tutte le maestre di scuola, le insegnanti di scuola media, le professoresse del liceo, non potendo parlare dei fiori del male in tutta la sua putrescente e meravigliosa poesia, prendono solo sta poesiolina che è abbastanza neutra. C'è l'uccellone che approda sulla tolda della nave e i marinai infami lo torturano, lo buciacchiano e lui starnazza come se fosse un'oca zoppata. In realtà quando vola è il re dei cieli, è imponente, maestoso, e questo è il poeta. Quando sta in mezzo alla gente comune viene considerato una sorta di menomato, di cretino, e lui soltanto quando aleggia negli spazi profondi della poesia è poeta, è padrone del suo elemento, è sempre macerato dallo spleen, da questa sorta di inquietudine del fatto che non riesce mai a raggiungere la radice dei simboli più profondi della propria ispirazione, quindi della propria malattia di poeta. Questa mattina sto mangiando la torta col pregiutto che ha portato Manuel Guerrini, che mi ricorda la mia terra. Una mia collega mi ha detto: cos'è lo spleen? Mi è caduta la torta per terra, per farvi capire la mia situazione. Ma perché vi parlo di questi due uccelli? Perché vorrei che attribuisse un nuovo significato simbolico a questi due volatili. Ieri è accaduto qualcosa che mi ha profondamente inquietato, e mi ha inquietato il fatto che sia stato ultra documentato nella eternità iconografica della rete, dei servizi televisivi, cinematografici, ma nessuno si è mai posto quale potesse essere il valore simbolico di questo fatto. Giorno dell'Angelus, c'è il Papa, La piazza San Pietro gremita di fedeli, il Papa ha un carezzevole scamotage di marketing, c'ha due bambini dietro il balconcino della sua finestra in cui si affaccia, due bambini dell'Azione Cattolica, ogni bambino tiene in mano una colombina della pace. Il Papa gli dice: adesso le liberiamo le colombe, documentate, sente, lanciatele verso il basso perché sennò sono attirate dal calore della stanza del Papa, che è una stanza caldissima, ci saranno termosifoni, stufe, la stufetta con cui fanno il conclave per la fumata bianca e nera durante l'anno quando c'è il Papa va tutta callara, figuriamoci, il Papa mica quando è in giro col pile, col maglione di lana pesante, la sciarpa, il cappuccio, le calosce, il Papa è sempre vestito da Papa, quindi c'è un gran caldo. Il Papa, che se ne intende, dice: le lanciate verso il basso dal balconcino, sennò tornano dentro per stare al caldo. Era una giornata, ieri sembrava Varsavia, sembrava Roma da quanto era freddo. I bambini obbediscono, prendono le colombine della pace e tac, le lanciano sulla folla. Tavola, pace, pace. Le colombine svolazzano felici, garole, sempre state nel colombaio delle suore. Le colombe della pace vengono allevate da conventi specializzati, immagino, di suore, specializzate nell'allevare uccelli della pace che i giorni fantastici vengono buttate dal balcone di San Pietro. Queste due colombine escono con tutta la folla sotto, contente, che bello. Una dice all'altra: torniamo dentro che è caldo lì dal Papa, poi c'è un sacco di biscotti. No, dice, dobbiamo fare il volo della pace, soprattutto i fedeli dell'Azione Cattolica. In quel momento accade qualcosa di imprevedibile. Scatta velocissimo, rapido, come se fosse uno Stuka con la sirena pronto a bombardare una città. Arriva un gabbiano col beccone, si becca una colomba, trac, tac, gli stacca il collo, gli spezza il collo, la schiaccia sul cornicione sotto la finestra del Papa e se la comincia a squartare con tutte le budelline di colomba innocente che cascano sulla folla. I bambini impietriti hanno avuto un trauma, che diventeranno, che ne so, musulmani integralisti, andando in giro con le cinture piene di esplosivo da ora in poi. E l'altra colombina invece, con la coda dell'occhio, vede la colombina squartata dal gabbiano e dice: me ne devo andare. Ma in quel momento ratto arriva un corvo, il secondo animale simbolico, l'albatro di Baudelaire, se già mentre si banchettava con gli intestini ancora fumanti, la prima colombina, l'altra colombina è inseguita da un corvo nero con un becco acuminato a punta, così, che con una sorta di kung fu da uccelli, non ho mai vista una cosa del genere, con le sue zampe becca le zampe della colombina, le immobilizza e sta per affondare il becco dentro anche lui le viscere della colombina per una sorta di intervento divino, non sa perché, non si sa come andrà a finire. Non c'ho la foto dopo, non so se il corvo ha squartato anche l'altra colombina o il fotografo, colto da un momento di improvviso bontà d'animo, non ha voluto fare la foto. Fatto sta che un corvo e un gabbiano hanno fatto fuori con un attacco premeditato, velocissimo e letale, le due colombe della pace a Piazza San Pietro, il giorno in cui nell'Angelus erano liberati quegli uccelli. Voi come la vedete? Via. Guarda! Guarda! Ehi! Non mi dovete toccare! Oh! Ecco, questo è uno dei peggiori incubi della mia fanciullezza, della mia età giovanile. Gli uccelli di Hitchcock, gli uccelli che improvvisamente sembrano animali amici, simpatici, carini, gli si dà il becchime, gli si fa la casetta, l'uccellino porta regalino quando cade il dentino, per altri il topolino, dipende un po' dalle zoofilie domestiche e legate, non so, a circostanze ambientali, locali, via dicendo, e nel film di Hitchcock diventa improvvisamente cattivi. Ma cosa sta accadendo? Viviamo in un momento di sconvolgimento totale di quelle che sono le faune urbane, c'è un significato simbolico da Nostradamus, vedrete quando un corvo e un gabbiano mangeranno le colombe della pace accadrà, non so, che i cosacchi abbeveranno i loro cavalli alle fontane di San Pietro, come diceva Nostradamus. Ma io vorrei partire da un dato molto più semplice e concreto. Io vedo che oggi molti giornali romani improvvisamente si accorgono che la città di Roma è invasa dai gabbiani. Una volta c'erano gli storni, una volta, mi ricordo, io vivo in un quartiere ad alto tasso di storni, venivano una volta l'anno con le sirene, con i richiami, e allontanavano gli storni, non c'erano le macchine ricoperte da guano di storno, era normale, per un paio di mesi all'anno non c'è più uno storno in tutto Roma, in tutto il quartiere Prati non vedo più volare uno storno, non vedo più nemmeno i piccioni. Ogni tanto mi capita di dover prendere al volo con il mio smartphone dei grossi gabbiani che prendono un piccione e ci banchettano sul tetto di un'automobile. Cosa sta accadendo a Roma? Roma è invasa dai grandi gabbiani e dai corvi improvvisamente. A me piace molto questo avvicendarsi di fauna urbana. Vediamo se dietro qualche motivo più strettamente razionale, non legato ai sensi profondi e ai vaticini che si possono fare. Francesca Manzia, buongiorno. Buongiorno. Francesca Manzia è responsabile del Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU, la Lega Italiana per la Protezione Uccelli di Roma. Esatto. Lei ha fatto qualche riflessione quando ha visto il filmato del gabbiano e del corvo che mangiano le colombine? Beh, diciamo che dal mio punto di vista è una cosa assolutamente normale e naturale che succede, quindi anzi mi stupisco un po' di tutto quello che è causato. Cioè che ancora mandino colombe in giro quando si sa che è come mettere il verme all'amo e metterlo dentro un mare, dentro il lago. In natura ci sono prede e predatori, queste sono leggi naturali che insomma dobbiamo anche rispettare e non guardare come cose inquietanti, ma bensì come cose naturali. Ecco, cosa sta accadendo? C'è stato comunque una deriva, un cambiamento, diciamo, delle faune delle città, non so, i lupi sono arrivati assieme alle volpi, io non ho mai visto tante volpi come in questo momento nelle periferie vicine ai Cassonetti. La volpe una volta era un animale quasi fantastico, se leggeva solo nelle favole. E degli uccelli cosa è cambiato? Sì, beh, i cambiamenti ci sono stati e sono ovviamente dovuti a noi, all'inurbamento insomma del territorio, anche al degrado che noi abbiamo portato sul territorio, e tutto questo ha favorito determinati animali rispetto ad altri. Quindi gli animali opportunisti, che possono essere le cornacchie, possono essere i gabbiani, ma i piccioni stessi, le volpi, sono tutti animali che approfittano di quello che noi lasciamo come rifiuto, come magari cose nel cassonetto, oppure roba da mangiare per i nostri animali domestici. Tutte queste cose che noi lasciamo a disposizione sono ovviamente un banchetto perfetto per questi animali. Sì, per il gabbiano ci poetiamo tanto, la gabbianella, il gatto, l'albatro, ma in realtà è una specie di avvoltoio un po' più carino, mangia di tutto, le peggio schifezze. È un animale opportunista, quindi è un animale che sicuramente è un predatore, quindi se può preda e mangia, ma ovviamente se è possibile per mangiare più facilmente lui ne approfitta, quindi se c'è la scatoletta del gatto che viene messa in strada è chiaro che lui arriva e se la mangia. Perché ovviamente. I gabbiani che mangiano a piccioni è uno spettacolo molto frequente. Io li vedo, lo prendono. Se lo mettono sul tettuccio una macchina, se lo fanno ben bene a pezzettini, se lo mangiano. Sì, esatto. In realtà questa deve essere anche vista da un altro punto di vista, perché il piccione, noi sappiamo che ovviamente ce ne sono tantissimi qui in città, ce n'erano di più qualche anno fa, e con problemi legati proprio al numero della specie, perché se in una determinata area ci sono tanti esemplari è più facile che questi esemplari siano malati e sviluppino insomma patologie anche di malformazione. Io non vedo, nel mio quartiere non vedo più un piccione, esatto. Allora il discorso è questo: tanti non gabbiani. C'è la selezione naturale, cioè quello che manca in questi casi è la selezione naturale, quindi l'animale più debole, l'animale malato va avanti ugualmente e quindi indebolisce la specie. Arrivato il gabbiano, c'è stata selezione naturale sul piccione. Questo non significa che ha ucciso i piccioni e li ha... L'allontanati? Non li ha allontanati, li ha semplicemente ridotti di numero. Il piccione sta meglio. Questo io lo posso dire ovviamente perché avendo un ospedale per animali selvatici... Sì, ma è come il bombardamento chirurgico. L'ha ridotti pappandoseli, non è che l'ha ridotti... Certo. Beh, ma questo rientra nella legge naturale. No, a me la figlia quindi... mi scandalizza. Fermo un attimo solo. Paola, buongiorno, ascoltatrice, sì. Prima. Buongiorno. Sì. Io chiamo da Milano, sì. E volevo proprio dire, alla luce di quello che aveva affermato lei prima, che da noi hanno introdotto, il comune ha introdotto le taccole, che sono quei merli corvi grigi e neri piuttosto, sì, grossi, per tenere sotto controllo la popolazione dei piccioni. E in realtà non sono spariti del tutto i piccioni, ma si sono anche ridotti notevolmente i passerotti, non ne vediamo girare più. E quest'inverno io di solito mettevo... Quindi lei è preoccupata che non ci sono più passeri? Allora, preoccupata, diciamo che anche quando si altera l'equilibrio naturale e poi si cerca comunque con mezzi naturali di tenere sotto controllo la situazione, non la si può comunque lasciare andare così a se stessa. Fermo un attimo, sentiamo subito Francesca Manza. Le risulta che il Comune di Milano abbia introdotto la taccola... No, non quindi, è stata girano leggende metropolitane intorno a questo. Sì, non è vero che è stata introdotta la taccola. Il problema è... La taccola cos'è? Un cornacchione, una cosa del genere? È un corvide, sì. È un corvide, sì. È diciamo un parente della cornacchia. È quello grigio e nero, è bellissimo, mi piace. Sì, quello grigio e nero è la cornacchia. La taccola ha soltanto una fascetta grigia, ma diciamo che è tutta nera. Per comunque si mangia i passerotti, sì. Sì, beh, è un predatore anche lei, però il discorso dei passeri non è legato al fatto che ci sono i predatori, quindi ci sono i gabbiani, ci sono le cornacchie, ci sono le taccole che se li mangiano, bensì al fatto che noi abbiamo trasformato l'ambiente rendendolo inospitale per determinate specie. E quindi arrivano quelli che riescono a sopravvivere. Scusi che le dico, però ho dei tempi. Va un attimo le informazioni del traffico, prenda fiato, poi mi spiega anche se è possibile che qualcuno mi scrive che adesso a Roma bisogna introdurre i falconieri con i falconi per mangiarsi i corvi e i gabbiani. Mi sembra non si finisca mai. Finiremo con le aquile, poi non so che ci saranno. Melog. Cronache meridiane. Oggi ho proposto una trasmissione su due livelli di lettura e di partecipazione. L'uno, vedete voi un segnale apocalittico, un segno comunque dei tempi nel fatto che un gabbiano e un corvo abbiano divorato le colombine della pace che i bambini dell'Azione Cattolica hanno messo dal balcone, lanciato dal balcone di San Pietro. E già qualcuno mi scrive: quando la smetti di sparare cazzate. È vero, è successo. Seconda cosa, dietro questo fatto può essere interpretato in maniera simbolica e metafisica, in realtà esiste una razionalissima e normalissima spiegazione, quella che ci sta dando Francesca Manzia, che è responsabile della LIPU di Roma. Ho ripreso la telefonata dell'ascoltatrice Francesca rispetto a un altro messaggio che mi è arrivato dicendo che stanno arrivando i falconieri a Roma perché i falconi caccino via i gabbiani e i corvi. Ma è possibile questo? No, non è possibile. Un'altra leggenda. C'è un'idea leggendaria sull'invasione degli uccelli, bellissima. Sì, sono diverse tesi e alcune molto fantasiose. Allora, ma perché è impossibile che i falconi possano cacciare i gabbiani? Diciamo che i falchi qui a Roma ci sono già, il falco pellegrino nidifica anche qui a Roma, è presente e però non per questo il gabbiano se n'è andato. Cioè il fatto di far volare un falco in una determinata zona non significa che poi tutti gli altri predatori o comunque animali territoriali se ne vadano. Quindi cioè non si risolve nulla da questo punto di vista. E cosa si mangiano i falchi in generale? Uccelli più piccoli? Sì, il gabbiano sicuramente no, serve un animale molto grande. Ma per derattizzare non possono essere usati dei rapaci, cioè i gabbiani mangiano anche i topi? I gabbiani mangiano anche i topi, sì. Quindi potrebbero esserci meno topi lungo il Tevere se ci sono i gabbiani? I gabbiani mangiano i topi e questo lo vediamo, insomma l'ho visto anche io e lo fanno già, quindi i ratti già li mangiano. Quindi loro sono predatori e mangiano tutto quello. Quindi derattizzano, in fondo i gabbiani hanno una loro funzione. Derattizzano, sì, ma sono presenti qui a Roma in particolare, a molti rapaci notturni che mangiano i ratti. Tipo? Allocchi. Che Roma sia piena di allocchi non avevamo dubbi, ma non l'ho mai visti poi di notte. Sì, beh, si sentono molto facilmente, basta avere un orecchio un po' allenato e si sente. E come fa l'allocco? Qual è il verso più o meno? Come un gufo? Beh, sì, più o meno fanno lo stesso verso, comunque hanno così. Senta, ma è vero che hanno dice che l'altra sera c'era un concerto al Vittoriano, improvvisamente hanno cominciato i gabbiani a far casino e non si sentiva più nulla. Quando fanno quel rumore i gabbiani cos'è? Che è inquietante. Beh, sì, diciamo che hanno un verso che è poco piacevole. Sì, sembra un urlo di uno scannato, è fortissimo. Beh, sono animali territoriali, sono animali anche che vivono in gruppi, quindi ci sono dei linguaggi tra di loro e magari ecco c'è una situazione in cui qualcuno è entrato nel territorio dell'altro, oppure in periodo di nidificazione c'è il fatto di difendere i piccoli, quindi ci sono dinamiche tra di loro che determinano questo. Le famose terrazze romane, tanto ben celebrate da Sorrentino, sono piene di nidi di gabbiani e le signore sono molto spaventate. Sì. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa ne sa di quello che sta succedendo? Guardate, si denota, io seguo questi uccelli, questi gabbiani, queste taccole, perché mi piace la natura, mi piace osservare i volatili. E negli ultimi anni, io vivo a Genova, si è assistito a moltissime aggressioni nei riguardi di esseri umani da parte dei gabbiani, perché questo buonismo, questa gente che li nutre offrendogli cibo, li ha di fatto diventare veramente aggressivi. Cioè se la signora che dava il becchime ai passerotti lo dà a un gabbiano, gli stacca una mano, questo le vuol dire. Esatto. Con i bambini sul lungomare col gelato in mano, ma sono fatti che accadono. Vogliono anche loro il gelato. Attenzione, fermo là. Fernando, cosa sta accadendo? Sì, buongiorno. Ci segnali la situazione? Vorrei dire questo, che i cardellini che c'erano non ci sono più, perché invece sono aumentati in maniera impressionante le gazze che predano. Questo dove sta accadendo? A Viterbo c'è la gazza che si mangia il cardellino. E a Genova anche i piccoli dei merli. E lei dispiace questo, non c'è più il cardellino. Carino, giallo, carino, invece la gazza. No, ma c'è anche questo, che la gazza non ha nemici, quindi si stanno moltiplicando in una maniera enorme. Allora, l'invasione delle gazze a Viterbo segnaliamo, e invece a Genova segnaliamo gabbiani che aggrediscono esseri umani. Francesca Manzia, cosa può succedere? Per quanto riguarda la situazione d'allarme, sta vedendo, abbiamo messo il dito in una situazione veramente drammatica. Sì, allora, per la situazione di Genova, in realtà succede in tutte le città dove loro nidificano. Il fatto delle aggressioni capita solamente nel periodo di nidificazione e quando loro hanno da difendere il nido o i piccoli. E non si tratta di aggressioni, insomma, come negli uccelli di Hitchcock, ma si tratta semplicemente del gabbiano che tenta di spaventare la signora che va nel terrazzo e quindi si avvicina al piccolo, la spaventa planando molto vicino e cercando insomma anche con degli urli di non farla avvicinare al piccolo. Questo si tratta insomma. Luca, buongiorno Luca. Buongiorno. Finalmente cercavamo un falconiere e l'abbiamo trovato. Ci illumini. No, volevo solo puntualizzare il fatto che per allontanare i gabbiani guardi, generalmente i falconieri utilizzano le pogliane di Harris, falchi di Harris, che sono degli accipitrini e fanno praticamente una caccia di basso volo. Quindi sarebbe possibile tecnicamente che a Roma venisse una squadriglia di falconieri con le pogliane e sì, attaccasse tecnicamente, tecnicamente è possibile. I falchi pellegrini presenti a Roma generalmente non attaccano i gabbiani, perché sono, i gabbiani fanno stalking nei confronti dei pellegrini e quindi è difficile che un falco pellegrino attacchi un gabbiano. Cioè stalking perché se li vogliono... Una pogliana di Harris addestrata, e infatti vengono utilizzate. Pogliana è molto più grossa, è un avvoltoio praticamente. No, la pogliana è un accipitrino. Ma tradotto cosa somiglia? No, non è. Quanto è grosso sto uccello? È un po' più piccolo di una story, cioè grande quanto una story, un po' più piccolo. E la story però non so come è fatta, a palmi. Ecco, è più piccola di un'aquila, è un po' più grande di un falco pellegrino. 80 centimetri. Ecco, più o meno, diciamo. Sì. Sono arrivati, no, perché lei è da esperto, ma noi andiamo a palmi. Un chilo e cento, mentre un falco pellegrino può è pesare... difficile addestrarla all'attacco del gabbiano? No, la pogliana di Harris è un rapace molto, molto facile da addestrare e vengono utilizzate moltissimo in falconeria proprio per fare beer control. Beer control sarebbe sterminio... No, il control sarebbe l'allontanamento, diciamo, ecologico degli Ma per allontanarli gli dà delle belle beccate e gli stronca le gambine, no? Ma no, generalmente i gabbiani quando vedono le pogliane di Harris sono utilizzate e cacciano anche in gruppo. Basta che i gabbiani vedono le pogliane che formazione hanno gruppo. Quando attaccano le pogliane? Come sono in formazione? Ci sono diciamo nel gruppo delle pogliane ci sono le sentinelle, ci sono quelle che attaccano. Ah, quindi è proprio un attacco sistematico, interessantissimo. Sì, sì, Francesca sì. Manzia, quanti gabbiani ci sono a Roma? Ho letto 20.000, ma è un numero accettabile? Ce ne sono molti, sì, è un numero accettabile, in realtà il numero è in crescita, ancora non si è stabilizzato. Questa storia della pogliana come la vede lei, della pogliana che attacca in squadriglia? Sicuramente il discorso è questo, ovviamente un predatore spaventa un altro predatore che ci sta e nel momento in cui lui vola e l'attacca sicuramente crea scompiglio, ma in realtà il problema è che il falco, la qualità di Harris o qualsiasi altro animale che fanno volare dovrebbe essere presente costantemente in un punto per poter far andare completamente via. Mi scrivono che l'aeroporto di Bari hanno risolto il problema di piccioni e gabbiani che facevano tracollare gli aerei chiamando un falconiere fisso che sta all'aeroporto di Bari. Deve essere fisso, perché se no assume un falconiere e va lì coi falchi. Il gabbiano, una volta che la pogliana di Harris non c'è più, ritorna esattamente nel punto dove era prima. Interessantissimo, Francesca. Scompare, abbiamo dato uno spunto razionale a quella che potrà essere un accreditamento, come mi scrive un ascoltatore. Significa che il potere di Dio non è più tra le mura vaticane, dice un ascoltatore. Altri mi dicono che in realtà le cose stanno. Abbiamo detto noi. Grazie, Alessandro Chiappini. Oggi è il suo compleanno. Tanti auguri, Fabrizio Intonti.